Alla mattina non mi guardo più allo specchio. Mi vesto in fretta e furia, getto il pigiama in un secchio. Poi esco e avrò lasciato certo qualche cosa in bagno. Detto, fatto, le chiavi, che cazzo. Puzzo ancora di letto disfatto, distrutto dall'ultima cena a base di alcol. Ed ogni dì lo dipingo di bianco. Mi sveglio sulle strisce con il suono di un clacson. Io c'ho la testa tra le nuvole, ma il corpo sotto l'acqua. E lo stomaco in apnea per trattenere la pancia. Le occhiaie curano l'ansia, coloro di nero i fanali di una panda bianca. Vivo per miracolo, per merito del panico. Mi impanico e non merito di vivere in un attico. L'oracolo ha parlato a me, m'ha detto nada. Non puoi fare il rap, non sei nato per strada. Ma ehi, sono il dottore Speranza. Le bonghe per me sono la soluzione all'asma. Continuerò a far rime fino a quando morirò, scrivendo testi complessi nei momenti no. Velocità, ambizione, coordinazione. Se pensi da impiegato tu vivi in liquidazione. È vero, senza l'arte sei muffa della nazione. Ma la libertà non ammuffisce con te. Che tu sia solo un rapper, postino imprenditore. Che tu sia solo un rapper, postino imprenditore. Che tu sia solo un rapper, postino imprenditore. La libertà non ammuffisce con te. Se 1, 2, 3, 4, 5 minuti dopo mi alzo, sicuro di aver già saltato il pranzo. Cazzo, anche quest'oggi non parto da sazio. Mio padre mi ricorda che non sono più ragazzo. Gli rispondo che del resto del lavoro vado pazzo. Soltanto che essendocene poco preferisco darla a un altro. Sai, c'è poco spazio, sono altruista. La mia giornata, cannoni e frista. Una figata, fare l'artista. Nobilita perché puoi stare al centro. Non centralinista, né destra, sinistra. Oggi vado dritto per la mia strada. L'oracolo del rap dice volgo intifada. Voglio e colgo rose dal terreno da patata tappata. Track, testa in cielo fanata. Se mi sveglio di mattina c'ho l'asma. L'ansia, l'alza, asta, la postumazza che mi fa girare la stanza come in una danza. Postino! Velocità, ambizione, coordinazione. Se pensi da impiegato tu vivi in liquidazione. È vero, senza l'arte sei muffa della nazione. Ma la libertà non ammuffisce con te. Che tu sia solo un rapper, postino imprenditore. Che tu sia solo un rapper, postino imprenditore. Che tu sia solo un rapper, postino imprenditore. La libertà non ammuffisce con te.